questa iniziativa innanzitutto, se ben ricordi, coinvolge direttamente anche Radio Città Fujiko, perché fu un'iniziativa poetico-fotografica che nacque proprio sulle onde di Radio Città Fujiko, perché 5 anni fa, il 35esimo anniversario della strage, io organizzai questa iniziativa poetico-fotografica. Ogni giorno, nella settimana precedente al 2 agosto, si leggeva una poesia e sul sito della radio si postava una foto. Una foto e una poesia che erano dedicate alle vittime di tutte le stragi, proprio perché tutte le stragi hanno un unico comune denominatore, che è quello di dividere, di terrorizzare, di controllare, no? Quindi lo scopo era questo: come noi bolognesi da 40 anni ormai, perché il 2020 sono 40 anni dalla strage, non demordiamo, siamo ancora qua con queste grida mute, no? Questi occhi che gridano giustizia, che non si chiudono davanti alle ingiustizie, vuole essere anche un monito all'ingiustizia in generale, no? A non aver paura, a non chiudere gli occhi, ma a gridare sempre comunque la voglia di verità, la voglia di giustizia, e farlo tutti insieme. Lo scopo era proprio quello di creare un'unità sotto, diciamo, un'unità artistica in questo caso, un'unità, una voce unica che gridasse contro l'ingiustizia e che facesse capire in silenzio che non si dimentica, non si può dimenticare mai, e che la giustizia è sempre al primo posto. E quest'anno appunto al Blues Café di via Bentini 65 ci sarà questo incontro, che saremo presenti io in qualità dell'organizzatrice dell'iniziativa, che non ho detto è diventato poi un libro, è diventato una raccolta poetico-fotografica. Poi ci sarà la storica, la dottoressa Cinzia Venturoli, e in rappresentazione dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto ci sarà un personaggio molto particolare, perché è Agide Melloni, che era all'epoca l'autista del bus 37, quel bus che è diventato tristemente famoso perché fu il primo a raccogliere cadaveri che venivano estratti dalle macerie del dopobomba. Si ricorderà la strage, si ricorderanno le vittime, ma soprattutto vedremo che cosa è successo in questi 40 anni, no? Che cosa è successo, che progressi sono stati fatti, che cosa si è scoperto di nuovo, perché io penso che alla fine sia la presenza costante quello che importa, sia il proprio non dimenticare, il dire noi siamo qua, non demordiamo. Questo secondo me è un messaggio veramente molto importante. Bologna ebbe una reazione che forse chi ha messo quella bomba non si aspettava, una reazione solidale, una reazione di una comunità. Ma diciamo che c'erano tutti. Io mi ricordo che all'epoca, adesso non sto a fare i conti, ma ero molto molto giovane, la vicina di casa della mia mamma, la dirimpettaia, disse: è esplosa una bomba alla stazione, è successo un macello, sono morti in tanti. E io la prima cosa che dissi a mia madre, dico: vado da là a dare una mano. Ma ero una ragazzina, non ero neanche maggiorenne, e mia madre mi prese per la collottola e mi disse: tu non ti muovi di qua, perché aveva capito la gravità della cosa. Ma io mi ricordo che, parlando con i miei amici anche più adulti, era veramente, Bologna era tutta là e Bologna è ancora tutta là. Cioè è un richiamo che ormai è diventato un rito collettivo. Il 2 agosto alle 10:25 Bologna si ferma, non c'è niente da fare, fa venire i brividi, perché è come se fosse in quel momento, è come se fosse successo ieri. Tu vedi ancora la gente che piange, perché è stata una ferita che non ha ferito solo le vittime e i parenti delle vittime, ci ha ferito tutti quanti, perché è stata a parte di sentirsi veramente fragili, cioè Bologna, patria dell'università più antica d'Italia, del mondo, ricordata nell'iconografia comune, città godereccia, culturale, Piazza Nord, cioè tutto quello di positivo ci può essere in una città viene deflagrata, viene spaccata da un evento che è inconcepibile, proprio inconcepibile, ma non solo per Bologna, per tutta l'Italia, però succede qua da noi. E allora noi cosa facciamo? Ci chiudiamo, ci proteggiamo, ma non solo, facciamo fronte comune a una cosa che è inaccettabile e continuiamo a farlo. Penso che l'identità di Bologna si ritrovi proprio in questo, far fronte comune al 2 agosto, che per i bolognesi c'è sempre, non è una cosa di 40 anni fa, ormai è una cosa della storia, ma adesso sono passati 40 anni, il bolognese non dimentica, non lo fa, è ormai nel suo DNA, l'esserci il 2 agosto ormai è nel suo DNA. Diamo qualche istruzione su come partecipare all'evento. I posti sono contingentati proprio in relazione, insomma, alle misure di sicurezza relative al Covid-19, comunque siamo all'aperto, le sedie sono distanziate, al pubblico è richiesto l'uso della mascherina, sono disponibili gel disinfettanti per le mani, è consigliabile la prenotazione, e do il numero di telefono 342 312 5814. altro. L'evento è assolutamente gratuito. Alla fine dell'evento, per chi lo desidera, verrà servito al tavolo un buffet, si chiama buffet ma con appunto rispettando le normative di sicurezza verrà servito al tavolo. Penso adesso il costo sia sui 7,50 euro, quindi una cosa molto irrisoria. Non è obbligatorio, però sappiate che i proventi del buffet verranno devoluti interamente all'associazione Goccia a Goccia, che si occupa di bambini, quindi insomma c'è anche un aspetto solidale. Sono vari i media partner che hanno partecipato a questo, hanno aderito a questo evento. Oltre a Radio Città Fujiko, cioè oltre voi che metterete in onda in differita l'evento, ci sarà Radio San Luchino che farà la stessa cosa e Radio Saiuz che invece andrà in onda in web radio, quindi si potranno vedere anche le immagini. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento giovedì 23 luglio alle ore 19 al Blues Café di via Ventini 65 a Bologna.